benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Potete ascoltarci in streaming sul sito www.ondarossa.info cliccando sul pulsante ascolta la diretta. I contatti telefonici sono 06 49 17 50. Un saluto particolare a tutti coloro e a tutte coloro sono in questo momento all'ascolto e sono private della loro libertà personale. Sta iniziando Tracce di Cinema, oggi è giovedì 1 ottobre, continua la nostra incursione negli anni 90 e se la scorsa puntata il film raccontava la realtà underground di un gruppo di adulti tragicamente distruttiva, nel film di oggi il livello di età è tragicamente più basso. Infatti riguarda un gruppetto di ragazzini filmati in una giornata di 24 ore tra droga, sesso e criminalità e AIDS. Un film che è stato potente all'epoca e io l'ho rivisto e lo è ancora, non solo per le tematiche ma anche per le piste scelte davvero belle. Il film, non hai detto il nome? Il film è Kids. Nothing's Gonna Stop the Flow dei Funk Implosion. Funk Implosion e in particolare Lou Barlow hanno curato questa bellissima colonna sonora. D'altronde noi colonne sonore brutte non ne facciamo, no? Per scelta, proprio. Per scelta, sì. È una colonna sonora funk, lo-fi, ovvero registrata, lo-fi che vuol dire di bassa fedeltà, quindi registrata con microfonacci in ambienti non adatti, e quindi ha il suono sporco, adatto proprio a questa colonna sonora, al film Kids. E nella colonna sonora originale sono tutti pezzi Funk Implosion più qualcos'altro, ma noi abbiamo aggiunto a queste tracce tutti i brani che sono contenuti invece nel film, che non compaiono nella colonna sonora, tipo i Beastie Boys o altri. Sì, appunto, come dicevi, la colonna sonora è così lo-fi, sporca, così come sono le immagini del film, non sono quasi mai girate in modo pulito, in modo tecnico, no? Perfetto. Proprio questo regista, Larry Clark, che non è un regista, ma è fondamentalmente un fotografo, e poi ne parleremo, ha proprio assunto questo modo di girare con dei take vicinissimi al piano sequenza. La macchina da presa partecipa in modo proprio intimo a quello che sono le soggettive di questi adolescenti che vivono questa realtà abbastanza di degrado e malsana, ecco. E io lo dico perché sono una mamma e quindi sono stata colpita una seconda volta. La prima volta che ho visto il film non avevo ancora figli, l'ho rivisto adesso e mi ha turbato moltissimo questo film, perché insomma lui riesce a entrare all'interno di queste realtà senza essere una vera e propria guida. È veramente molto interessante quello che fa Larry Clark in Kids. Così si chiama questo brano dei Beastie Boys, sempre la colonna sonora di Kids. La cosa bella della scelta che ha fatto il regista nel mettere questa musica è che non sono i classici, non è il classico hip hop dei Beastie Boys, ma questi brani contenuti nel terzo e nel quarto disco, in particolare Pow è contenuto nel disco Check Your Head, diciamo quello di So What You Want, non so se avete presente, e che sono brani senza il parlato hip hop, dove danno prova di essere dei bravissimi musicisti i Beastie Boys. Beastie Boys è l'acronimo della frase Boys Entering Anarchist States Towards Inner Excellence, e significa ragazzi che entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione interiore. Nacquero come gruppo punk hardcore, i Beastie Boys, e poi si trasformarono il loro stile musicale in tutt'altro. Passarono dall'hip hop fino al crossover, dando vita a queste sonorità assolutamente bellissime, secondo me. E stiamo ascoltando la colonna sonora del film Kids, e questo era I'm the One dei Average White Band. Gli Average White Band è un gruppo musicale scozzese formatosi negli anni 70, il loro nome vuol dire proprio il band, il bianco medio, e la loro musica è proprio disco funk, e leggevo che l'hanno anche nominati il loro genere Blue Eyed Soul, vuol dire penso il soul dei bianchi, no? Sono considerati una delle migliori band soul funk per il suono pulito, e loro si sono ispirati a Marvin Gaye, James Brown, Don Hathaway, e si può dire che è una band che ha avuto vari momenti di successo sia negli anni 70 e negli anni 80, ma anche adesso, una band multigenerazionale. Parlando del casting, Larry Clark è stato quasi al confine con la legalità nel metterlo insieme, e lui dice proprio in una dichiarazione, dice: ho dovuto cercare ragazze di 18 anni che sembrassero più giovani. Una volta però sono arrivati questi ragazzini sul set e non sapevo cosa fare, allora li ho messi seduti su un divano, loro fingevano di fumare marijuana e io ho detto di parlare di quello che volessero, ridendo. Così è uscita la scena migliore del film. Sono andati avanti per 10-15 minuti, ma dopo averla girata alcuni della troupe avevano deciso di abbandonare il progetto. Yeah. E anche questo brano è contenuto nella colonna sonora originale, quindi dei Folk Implosion, composto da Lou Barlow, campionamenti lo-fi, ipnosi e funk. E invece, diciamo, la parte, diciamo, più interessante forse del film, che è sicuramente un bellissimo film, insomma, Larry Clark comunque ha spaccato proprio quando, insomma, è uscito con questa pellicola, è il fatto che è stata scritta da un ragazzino diciottenne dal nome Harmony Korine, nato nel 1973 a Bolinas, cresciuto a Nashville, e si fa conoscere appunto per aver scritto all'età di 19 anni la sceneggiatura di questo film diretto da Larry Clark. E poi ha continuato, insomma, la sua storia nel mondo del cinema, firmando altre cose importanti, un lungometraggio chiamato Gammo, disturbante anche questo, vicenda di un gruppo di sopravvissuti ad un tornado nella città di Xenia nell'Ohio, e poi Il diario di Anna Frank parte seconda, è un mediometraggio di 40 minuti, insomma continua la sua vita, insomma, all'interno del cinema, firmando altre pellicole che hanno fatto scandalo. Nel 2003 dirige Above the Below, un documentario su un illusionista, David Blaine, e ha diretto vari video musicali per il Sonic Youth, Cat Power e Wild Oldham, e appare all'interno del film durante la scena in cui la protagonista femminile entra in una discoteca per cercare Telly, che è colui che le ha attaccato l'AIDS, e gioca la parte di un amico che le vende una potentissima droga, sempre Larry Clark, per non, insomma, smentirsi, ecco. The coyote goes. He was smiling through his own personal hell. Dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the friendly ghost. He was always the light to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum. E vi parlavo appunto del fatto che la colonna sonora del film Kids, curata dai Funk Implosion, è proprio lo-fi, e questo brano è decisamente lo-fi, c'è un organettino, una percussione fatta quasi con i piedi. Quanto mi piace quando mi spieghi tutto, dai. E se parla proprio di Casper il fantasmino. E invece, parlando del nostro regista Larry Clark, vi racconto che è nato nel 1943, è un fotografo statunitense, nasce come fotografo. Il suo primo libro di fotografie si chiama Tulsa e fu pubblicato nel 1971. È proprio una collezione di foto scattate in tre distinti periodi, nel 63, nel 68, nel 71, nell'ambiente dei giovani tossicomani di Tulsa, in Oklahoma, viventi sul confine. Che è la sua città d'origine. Sì, viventi spesso oltre il confine della legge, in un ambiente in cui Clark fu fino in fondo a tutti gli effetti parte attiva, si è guadagnato anche alcuni soggiorni in carcere, uno anche per tentato omicidio, insomma un personaggio interessante questo Larry Clark. E questo, beh, perdersi e ritrovarsi, come dire, bellissimo. Tulsa, come stavo dicendo, questo libro di fotografie di Larry Clark ha influenzato largamente non solo la fotografia americana ma anche il cinema, venendo direttamente citato come ispirazione da registi come Martin Scorsese per Taxi Driver e Gus Van Sant in Drugstore Cowboy. I libri successivi, di cui appunto stavo cercando di dire, sono stati invece a colore, e sono Teenage Lust e A Perfect Childhood, e dimostrano un'attenzione sempre più accentuata e secondo alcuni anche un po' morbosa verso la sessualità adolescenziale, resa esplicita del resto dall'attività di regista cinematografico intrapresa da Larry Clark con Kids e poi con Another Day in Paradise del 97 e Bully del 2001 e Teenage Cavman del 2002 e Ken Park dello stesso anno, tuttora non proiettato negli Stati Uniti. Il pezzo funk che avete ascoltato prima era di nuovo sempre dei Beastie Boys, si chiama Sabrosa, è contenuto nel disco preferito dei Beastie Boys di Fedingo, ovvero Ill Communication, che è il quarto album uscito nel 94. Oh, questo ci introduce al nostro ospite della settimana, che è Nicola Falcinella. Ci sei, Nicola? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Ben ritrovato, una delle voci storiche di Visionari. Di tanto in tanto ci sentiamo, soprattutto per il gioco delle cinquine che facciamo a inizio anno sui film che abbiamo preferito della stagione precedente, la precedente stagione cinematografica. Nicola, intanto come stai, caro? Benissimo, sono contento di ritrovarvi. Senti, allora, per Tracce di Cinema abbiamo scelto questo film di Larry Clark. Stavo notando che è stato il suo primo film e poi quello che lo ha imposto. Poi a questo ne sono seguiti una decina, che includono anche un film per la televisione, un video musicale e un corto documentaristico. Però nessun altro poi lo ha nuovamente imposto all'attenzione internazionale come questo primo Kids, Nicola. Sì, questo è stato un po' un exploit, tanto che andò in concorso a Cannes nel 95, è stata un po' la rivelazione. E quelli dopo hanno fatto un po' parlare, tipo Volley era stato a Venezia, non ricordo, mi pare nel 2001, non ricordo più se fosse in concorso, ma forse no, era nella sezione parallela, che allora non era, c'era il direttore Barbera, mi sembra, sì. E non mi ricordo come si chiamasse, quella che è attualmente Orizzonti. E poi Marfa Girl ha fatto un po' parlare perché aveva vinto il Festival di Roma, il Festival del Cinema di Roma nel 2012, però nessun altro è stato così dirompente come Kids, perché a parte che Clark è andato avanti un po' su questo stile, su questi temi, ma comunque impose l'attenzione, un tema che finora non era stato molto affrontato dal cinema. Senti Nicola, più in generale, cosa ne pensi della sua cinematografia? Di Clark? Beh, i primi film sono stati molto interessanti secondo me, fino almeno a Ken Park sono validi, sono interessanti. Poi ha avuto un po' una pausa nella quale poi è emerso con Marfa Girl, che invece non mi aveva, pur avendo vinto il Festival a Roma, non mi aveva convinto e mi sembrava un po' l'essere diventato maniera di se stesso e oltretutto nel frattempo c'è stato tanto cinema, tanti film che hanno trattato queste cose qui, cioè quando fece Kids, che è da ricordare che era una sceneggiatura scritta da Harmony Korine che aveva 18-19 anni al tempo in cui scrisse questo film, e fece, era la novità perché parlava di adolescenti, sesso, droga, violenza, AIDS, in un modo nuovo e in un modo molto, molto realistico, per qualcuno un po' furbetto e provocatorio, però insomma in modo molto di impatto. E allora era abbastanza una novità, non è che fossero così frequentati questi temi. E poi invece il tema del sesso tra adolescenti, la violenza, le gang di minori, così è diventato quasi cliché. E quindi Clark, che più di 15 anni dopo resta su quelle cose lì quasi nello stesso modo, è andato un po' verso la maniera. Sì, anche perché prima Ottavia ci raccontava un po' della sua personalità, anche del suo percorso artistico. Lui si è nasce come fotografo, sì. E del suo obiettivo era soprattutto legato alla prima mostra che fece, legato al mondo borderline della sua città natale, e poi vedendo la sua opera fotografica, devo dire che l'atteggiamento e l'attenzione verso il sesso degli adolescenti risulta un po' morboso in tutto il suo lavoro da fotografo, insomma. Questo risalta vedendo, adesso sto visionando proprio le fotografie online, ecco. Sì, io il suo lavoro da fotografo lo conosco poco, però devo dire che nei film, quantomeno nei primi, non c'era morbosità. Io mi sono rivisto Kids ieri sera velocemente per un po' perché veramente sono passati quasi 20 anni, sì. Me lo ricordavo vagamente, mentre altri film li ho più presenti. Insomma, non che abbia pensato tutto qui, ma quasi, nel senso, ad rivisto adesso con gli occhi del 2015, sì. È molto meno, non dico scandaloso, però è, sì, fa meno, colpisce meno. Alla fine le scene di sesso sono poche, e comunque non si vede niente, nel senso, sono, sì. Secondo me è interessante all'interno di questo suo modo di ritrarre il fatto che lui sia proprio super partes, no? Lui gira questo film proprio come se si inserisse proprio come una persona che non si vede all'interno di questa 24 ore di questi ragazzini, no? Sembra è molto realistico, insomma, è molto vero, e non c'è niente di conturbante, perché comunque effettivamente non ci sono delle scene così conturbanti dal punto di vista del sesso, eccetera, ma è conturbante il fatto che comunque lui riesca, un uomo di una certa età, insomma, riesca a entrare nella mente, nella vita di questi adolescenti in modo così leggero da non prendere mai una posizione, no? È proprio un osservatore, e forse questa è la cosa più morbosa, il fatto che lui sia questo osservatore esterno che però osserva attentamente. Questo secondo me è la cosa un po' che ti inquieta del film. Sì, che disturba un po', cioè, è anche uno dei pregi del film, cioè del questo riuscire davvero a ricreare un realismo, quasi una naturalezza. Sì, sì, sì. E c'è da dire che Clark aveva già più di 50 anni quando fece questo film, perché mi pare che sia del 43, quindi aveva 52 anni. Sì. E sì, questo forse l'irrealismo in questo contesto lo rende morboso, però la camera non induce mai, non cerca, almeno a mio avviso, non cerca mai l'immagine che faccia scandalo, no, sì, in effetti sì, non vuole fare scandalo, vuole appunto, come dicevi, ritrarre la vita di questi ragazzi, si pone al loro livello, è proprio davvero come uno di loro. Sì. E rivedendolo poi, come hai fatto tu, a 20 anni di distanza, probabilmente è vera la sua funzione da apripista in certi versi, perché poi ne sono seguiti di altri che sono risultati più scandalosi ancora, insomma. Rivederlo a 20 anni di distanza fa molto meno effetto, ecco. Sì, cioè, rivisto adesso devo dire che che forse una delle cose che più che la parte dei ragazzi colpisce la parte delle ragazze, delle due amiche che vanno a fare il test per l'AIDS, che comunque già allora era una cosa si aveva un po' di pudore, per non dire di paura, a parlare di queste cose, e che nel 95 l'AIDS era ancora, faceva ancora molta paura. Mm-hmm. Adesso valutiamo un po', non è più quel flagello che come lo vivevamo allora, però nel 95 far vedere due ragazze che vanno con a fare il test per l'HIV e una risulta anche positiva, e in questo modo così realistico, era molto forte d'impatto. Sì. Nicola, noi ai nostri ospiti ogni volta chiediamo un suggerimento per quanto riguarda un film, un'indicazione, una cosa che ti piace, una tua passione per un film di cui hai amato la colonna sonora, che potrebbe essere l'oggetto di una delle prossime puntate. Ah, un domandone. Se ce l'hai, poi subito fanno fatica a venire, però potrei citarne tantissime. Però no, da così adesso, visto che la colonna sonora di Kids è un po' hip hop, direi un film che non travolgente, però che ha una colonna sonora hip hop anche quella, che è Notorious B.I.G., che era la biografia di un rapper, il nome del rapper. Mm-hmm. E sì, restiamo in tema hip hop. In tema hip hop, benissimo. Poi se ti vengono in mente altre cose, me le segnali e le faccio sapere. Noi siamo qua. Okay. Nicola, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a voi, un abbraccio, a risentirci. Ciao. Everybody, the bottom line, I'm a black intellect, but I'm refined. We precision like the bullet, target bound. Just living like a hooker, the harlot sounds. Now, when I say the harlot, you know I need the hot beat of the equator, the puppets in the pot. Jalip, jalip, you wind up, yeah. Captain of the poets, I'm the number 7 pick. Licks, licks, licks, boy, when your backside. Licks, licks, licks, boy, when your backside. Listen to the beat of Shahi, let it glide. Tip to everybody, heaven's on my side. Even in Santo Domingo, and I got a gringo. We got Mike's friend, do we go? Know a little nigga who can rhyme when you ask me. Short, dark, the bus's voice is fast like. One for the trouble, two for the bass. You know the style trick, it's time to flip this. I like my beats hard like 2 day old. Shit. Steady eating booty MCs like cheesecakes. My man, I'll be sure he's in effect mode. Used to have a crush on Dawn from En Vogue. It's not like Honey Dip will wanna get with me, but just in case I own my condoms, then TLC. Now the formula is this, me tipping Ali. For those who can't count, it goes 1, 2, 3. The Instagram random. They make up is who I be. Brothers find it's hard to do, but never me. Some others try to diss, but Malik, you see him pitching me, not care about them DBMC. My shit is hitting, Trini Gladiator. Anti-hesitator, Shahid push the fader. From here to Grenada, Mr. Energetic, who me sound pathetic. When's the last time you heard a funky diabetic? I don't know, man, I don't know, man, I don't know, man, I don't know, I don't know. Oh my God, yes, yeah. Oh my God, oh my God, yes, yeah. Oh my God, oh my God, yes, yeah. Oh my God, oh my God, yes, yeah. Oh my God. Complimentary of me, the three for poetry. I got a hump in the coming hook, line and sinker. The Timbo lifts with the prints on the ground. Timbo's on the toes, I like the way it's going down. Down like a lady of the evening. When it goes in, text, just believe it's in. Cause Queens is the county, Jamaica is the place. Take off your piece, but you can't win the race. Oh my God, yeah, oh my God, oh my God. God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. Oh my God, yes. Oh my God. E della colonna sonora di Kids, cominciamo con il lato decisamente hip hop. Questo è il pezzo secondo me più bello contenuto nel film, Oh My God, la versione remixata di Oh My God dei Tribe Called Quest. Fra l'altro il ritornello è proprio, credo che sia cantato da Busta Rhymes, magari qualcuno ci può confermare. E i Tribe Called Quest, un storico gruppo hip hop degli Stati Uniti, si distinguono dagli altri del periodo, per ad esempio rispetto ai Public Enemy, perché hanno un sound decisamente meno aggressivo. Anche la violenza e la rabbia, diciamo, degli altri gruppi sono stemperate, e anche i cattivi sentimenti, e quindi hanno anche un, diciamo, sono sofisticati. Invece ho letto, cercando delle notizie sul film, una bellissima recensione su internet che dice questo a proposito di questo film: i Kids hanno qualcosa di animalesco e di assolutamente selvaggio, perché sembrano privi di sentimento ed agiscono in maniera puramente istintiva. Fanno paura perché non hanno rimorsi, ma soprattutto perché sono appena ragazzini senza nulla della loro età anagrafica, anzi hanno solo i tratti peggiori degli adulti peggiori, hanno solo quello che hanno assimilato e sviluppato dal mondo dei loro genitori, sostanzialmente assenti dalla pellicola. I Kids girano a vuoto come trottole impazzite, con il vuoto dentro, ed è per questo che sono innocenti, gioventù in fiamme incontrollabile, ma nessuno si dà la pena di controllarla perché l'incendio è totale. Vitamins, irons in the niacin. Fuck who did I appear? Rapper, sit back, I'm about to begin. Bow, foul, talking squall. Never even walked the wall. More or less destined to get tested. Never been arrested. My album will manifest many things that I saw, did, or heard about, or told firsthand. Never word of mouth. What's in the future for the fusion and the change? Rappers are in danger. Who will use wits to be a remainder when the missile is aimed to blow you out of the frame? Some will keep their limbs in, some will be maimed. The same suckers with the gab about killer instincts return bitching, knowing damn well they lack in this division. The con is sower, cracking your head with a 4x4. Realize, sucker, I'll be the coming like Noah. Always simmer you down, perpetrating facade in what you consider an image. To me, this is just a scrimmage. I feel I'm stoned, not cause of Bopper where my cap cocked. The more emotion I put into it, the harder I rock. Those who pose lyrical but really ain't true, I feel. About what you did, but you never done it. Admit it, you bit it, cause the next man came platinum behind it. I find it ironic, so I researched and analyzed. Most write about stuff they fantasize. I'm fed up with the bull on this focus of weed and clips, and Glocks getting caught, and wax not being flipped. It's the same old, just straining from the anal. The contact is not complex to vex, so why you pushing it? Why you lying for? I know where you live, I know your folks. You was a sucker as a kid. Your persona's drama that you acquired in high school and acting class. Your whole aura is plexiglass. What's the face told me you shot this kid last week in the park? That's a lie. You was in church with your mom. See, I know. Yo, slow your roll. Get it good to go. Guys be locking in this thing called rapping just for dough. Of course, we gotta pay rent, so money connects. but I'd rather be broke than have a whole lot of respect. It's the principle of it. I get a rush when I bust some dope lines or rule that maybe somebody will quote. That's what I consider real in this field of music. Instead of putting brain cells to work, they abuse it. Non-conceptual, non-exceptional. Everybody's either crime-related or sexual. I'm here to make a difference. Besides all the riffing, to traps I'm not sticking. Rappers stop flipping for those who pose lyrical, but really ain't true, I feel. Their times limited, hard rocks too. Sempre la colonna sonora di Kids, questa era Time's Up, scritta da OC, che è l'acronimo di Omar Cradle, rapper newyorkese degli anni 90. Questo film è stato un ottimo trampolino di lancio per alcuni dei protagonisti della pellicola. Justin Pierce e Harold Hunter sono morti. Justin si è tolto la vita nel 2000 e Harold è morto di overdose nel 2006, mentre Chloe Sevigny, che in persona il personaggio di Jenny, ha continuato la carriera di attrice partecipando a vari film più o meno importanti. Il suo grande successo è arrivato dopo il film di Larry Clark con Boys Don't Cry, Melinda e Melinda di Woody Allen, Mosche da Bar, American Psycho, Broken Flowers, insomma si è data da fare. Rosario Dawson, Ruby, ha partecipato a altre pellicole come Men in Black, Sin City, ed era la bellissima fidanzata di nella 25esima ora di Spike Lee di Edward Norton, grazie. E mentre Leo Fitzpatrick l'ha lavorato nel cinema, ma si dedica prevalentemente all'arte, e John Abrams, che è il suo personaggio è Steven, ha partecipato a film come Dead Man Walking, Scary Movie e Ti presento i miei. Senti, siamo all'ultimo brano, mi diceva David. Quindi Davide, siamo all'ultimo brano? Siamo all'ultimo brano. Se volete ne metto altri. Non credo, perché oggi non possiamo sforare che è tornata Attica Blues, grandissimi. E allora diamo i riferimenti? Sì, per sottoscrivere alla radio, che ha bisogno di voi per continuare a esprimersi attraverso l'etere, potete mandarci un contributo con il conto corrente postale. Sul conto corrente postale, scusate, 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185, Roma. Ma potete farlo anche da casa, andando sul sito della radio, che è www.ondarossa.info. C'è un bottone attraverso il quale dovete soltanto spingere e potete dare il vostro contributo telematicamente, si dice così, no? E poi l'indirizzo di posta elettronica, Tracce di Cinema @ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì sempre dalle 15 alle 16. Il pezzo che stiamo per ascoltare è un classico del rap di Chicago, ovvero Listen Up, scritta e composta da E. Rule. Listen up, check it, he was about to wreck it. No anaphora and no aura verse, I got the works when I freak it. Disarm unique with swarms of seeking. Diaphoretic and the energetic, when emotion draws up kinetic. Being combined with the vibe, not a man to transcribe, though they tried. I draw down and all in it, stew it whole, D to rock the whole jam. Jumps through the program, I down a cool and no man. When I get busy, who is he? My formula rhymes in parallel lines and perfect. Mics to short circuit, hawk is worth it. I'm on the brink of blowing up, y'all examine hits however they fall with. Mics in flight, graphic when I grabs it. Gab with forms of this sort, words I comports with. No buts, ends, or ifs. Laid on the reel, eventually to scale a bill. I pack a creel up the ramp till there's a meal and chill. When I feel like grow like shrubs over dubs. Indulgent buds, maybe 420 team hits on the elements of green. What's the word? Travel on a 6/3. Brothers in mad words to build upon a scene for the time being. Dips to intervene, God, what's the catch? Nose a kick, we can sketch. Got a panoramic view, plus I'm true. Pull no stunts on the crew, or you're through. That's a fact. Future not flung, pop the tongue, talk to what the guard drum. Listen up. Listen up, look me your ears, stop and stare. included in my unit. Big rhymes to flow fluent, manifest my flat non-stop. Redirect from the west, I play from in day chunks to test. Try and press, I have an S to stress, more or less. Mama, let's madress. I strive burrows through the fifth when I shift my zone. Got melodic tone, fills a free course, I like my resource. So let me board a check, live and direct to wreck a technique. I freak, man, that mystique. When I speak, I peak, illusionique. Flash well, squawk like a super bell. Plastic pumps of plastic, I'm drastic. Ill like Ramona, digging Afro Donna's and on it. No game retain my name. Here it is, Eru Supreme, I get vision of the scene. That your quote, check what I wrote. Big cash responses, no nonsense. Here it is, I'm true foul mannerism. Swarms getting warm through the lingo that I give them like that. While your hawks on my whiz, checking for the sound garden, there it is. Listen up, give me your ear, stop, it's dear. Listen up, lend me your ear, stop and stare. Listen up, lend me your ear, stop and stare. Listen up, lend me your ear, stop and stare. In the mind, a freak for the writing rhyme. Born and inclined, I'm juking no chimes. I'm out of those times, I make a killing. Talk your willing, got the feeling. All my skill and functions and modulations as I break trends. Beating ends with my mad malice, my God sins. Got the format, many swore that I wouldn't drop, now I got props. You heard my trumpet. I never slump, see punks and left back. I'm in like left rack when I kick my toes. Slick dress to fit, manifesting this. Thoughts emerge on a hip. You know this foul word you never utter, cause you know the God's butter. Got my game down pat, so my sound's fat. Flow from the end of the pound tracks, rip it then max. I'll be the loop to the punk, flowing the gimmicks and acts. I got the formula, I'm on it, yeah, the Bobby Mad Ill. Expedient through the fear you're feeling. Set of peeling, green backs, I'm reeling. A loop to kids who be stealing. I answer fluent, I'll a punk and survive. I'm magnanimous, I grow like cannabis. Never animus when I unfold. Hope the next man, no plan of us gold. My form is, and this form is enormous. The word not born is, showing them all. We're getting warm is indeed. Honking as I proceed, he rule the wise and prize them all. Go to the next level song and then I'm gone. Lend me your ear, stop and stare. Listen up, lend me your ear, stop and stare.